non semplicemente l'unico, ma uno degli unici anche in Italia di avere tanti filmati a disposizione, e altri siti hanno vari tipi di informazioni, cinesità.com da informazioni di interviste, oltre agli articoli scritti, e come dicevo Cinesità si mostra invece fa una specie di esposizione delle attività delle mostre all'interno di Cinecittà, che adesso sono chiuse, ma almeno via Facebook o Instagram si possono almeno per ora vedere degli piccoli eventi creati ad hoc, ecco. Quindi lo spazio principale è archivioluce.com per la fruizione. Per la fruizione dei filmati l'unico sito è l'archivio Luce. Ricordiamo Luce per gli spettatori, un'offerta gratuita sul web di filmati, cinema, arte, informazione, cultura e didattica. Un saluto e un ringraziamento a Roland Seiko dell'Istituto Luce. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio a te Federico e a tutti gli ascoltatori. A presto. Gianluca Curti di Minerva Pictures per parlare di The Film Club, 100 film gratuiti on demand. Gianluca, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te. Ci racconti? Sì, molto semplicemente, con questa bella tempesta che ci sta colpendo un po' tutti quanti, volevamo fare con il mio gruppo di lavoro qualcosa che avesse un minimo senso per dare un po' di sollievo a chi è forzato a restare a casa da solo, in compagnia, in famiglia, da single, in qualunque modalità. E noi siamo gente che fa cinema, l'unica modalità che abbiamo visto poteva essere fatta in tempi rapidissimi è stata quella di dare gratis, gratuitamente, di regalare a coloro che vorranno andare su questo nostro canale che è su web, che appunto si chiama The Film Club, regalare 100 film in visione totalmente gratuita per il prossimo mese, poi insomma sperando che passi presto, perché eventualmente siamo ben felici di metterlo a disposizione ancora più a lungo, ma speriamo che invece presto questa sezione passi. Quindi abbiamo messo un estratto della nostra piattaforma, del canale a disposizione di chi vorrà vederli, e c'è di tutto un po', ci sono film di vario genere, da film classici importantissimi, non so, da film d'amore e d'anarchia, da Debra Müller, al gruppo di famiglie all'interno di Rubino Visconti, fino a film catastrofici o film thriller o film action, horror classici tipo El Riser, film con Steven Seagal, da Ebo Ferrara, Il cattivo tenente, al super classicone Milano del libro 9 di Fernando Di Leo, film per famiglie. C'è veramente di tutto un po', insomma, abbiamo cercato di fare qualcosa che possa aiutare tutti i componenti della famiglia, delle persone che sono a casa, insomma. C'è anche un bellissimo filmato che io ho sempre amato molto sui Polis, che si chiama Can't Stand Losing You, ma ci sono anche i capolavori di Bruno Bozzetto, per cui di animazione. C'è veramente una vasta scelta. È stata un po' una scelta veloce per mettere insieme questi titoli o ragionata il più possibile? Allora, in principio è stata una scelta molto veloce, poi siamo tornati sulla selezione fatta con il gruppo dei miei collaboratori e abbiamo cercato di fare qualcosa che fosse quanto più possibile ragionato, nel senso che volevamo dare una scelta meditata, no? E quindi nella scelta meditata abbiamo messo qualcosa che possa aiutare la mattina quando darsi dopo aver fatto colazione, piuttosto che la sera se stai insonne e non vai a letto, e allora se vuoi essere impegnato ti vedi Amen di Costa Gavras, se vuoi casseggiare ti vedi Sharknado, capito? Veramente se vuoi solamente essere impegnato ti vedi Carne Tremola di Pedro Almodovar, se vuoi casseggiare ti vedi Club Vacanze con Alvaro Vitari, Bombo del Carnavale, insomma di tutto un po'. Di tutto un po'. Allora ricordiamo l'indirizzo a questo punto. Allora l'indirizzo è thefilmclub.it, quindi thefilmclub.it. Si va lì sul sito del canale, della piattaforma, si fa l'iscrizione, è una procedura rapidissima, completamente gratuito, non dà nessun obbligo di nessun tipo, vedi uno o 100 film che vuoi vedere. E quando sarà finito questo periodo non dovrei dare nulla, quindi non c'è nessun obbligo nascosto, niente, volevamo solamente dare

Oramai sì, anche se io a volte seguendo molte cose rimango sorpreso da YouTube, da video che durano ore, di persone che parlano, raccontano, fanno, quindi non è neanche vero, no, che il formato web deve essere per forza corto, però in questo caso lo è di statuto corto, perché i lavori che vorrete vedere, anche che durano dai 3 minuti, magari 10 minuti, hanno un lavoro dietro pazzesco, perché sono praticamente tutti quasi fatti a mano, quindi hanno bisogno di migliaia di disegni per fare quei minutaggi, quindi naturalmente è anche per questo che in Italia si producono pochi film di lungometraggio di animazione vera, perché il lavoro che c'è dietro dura anni. Ci dai in chiusura tutti i riferimenti web? Ma io direi di puntare, diciamo, direttamente al sito del festival, che è www.pesarofilmfest.it, in cui c'è la notizia e il link, oppure il canale di YouTube Pesaro Film Festival, in cui ci sta la playlist dedicata a questi corti, o su Facebook naturalmente anche lì Pesaro Film Fest, Twitter o quant'altro. Selezione che andrà ad aumentare chiaramente, da quanto dicevi. Sono tipo una quindicina, quindi si aumenteranno adesso che abbiamo le altre risposte via via, e quindi si implementeranno giorno per giorno. La sezione corti in streaming gratuito per quanto riguarda la mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro, l'ultima edizione dello scorso anno. Un saluto e ringraziamento al direttore Pedro Armocida. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, buona visione. Con l'artista Francesca Fini per presentare Quarantine TV. Francesca, ben trovata. Ciao. Allora, un'iniziativa di fruizione culturale in tempi di contagio, raccontaci tutto. Allora, io ho pensato, gestisco da tanto tempo una mia web TV personale con questa piattaforma di streaming tutta italiana di ragazzi giovanissimi di Bologna, che si chiama Teiuto, che hanno fatto una sorta di Vimeo o YouTube, però made in Italy, diciamo, dove permettono a persone che hanno dei contenuti video di avere il loro canale, dove mettono a disposizione questo materiale con una sottoscrizione oppure l'acquisto on demand dei video. E io ho creato questo mio canale perché una quantità di materiale enorme, che praticamente ho cominciato a collezionare da 15 anni, quindi tutte le mie video performance, le performance, la video arte, le animazioni, anche cose sostanzialmente inedite che poi non ho neanche diffuso tantissimo, e ho pensato, come moltissimi, che in qualche modo si trovano a dover fronteggiare una situazione epocale, insolita, inaudita nella nostra storia, cioè quello di fermarsi un attimo e dover riempire questo tempo che in qualche modo riempiamo correndo da una parte all'altra e affannandoci, cercando di riempirlo con eventi di tutti i tipi e attività anche spesso frenetiche, anche spesso a volte insensate. Ho detto, mi sono posta il problema di in qualche modo contribuire, creare un senso, se vogliamo, non intrattenere quanto creare un'alternativa. Mi sono detta che forse era il caso di mettere a disposizione gratis tutto questo archivio, e quindi ho aperto l'accesso alla mia web TV gratuitamente da qui fino a data da definirsi, cioè dalla notte dell'annuncio della quarantena nazionale, che mi sembrava proprio un momento storico di questo periodo e anche molto metaforico, quindi ho deciso di rendere accessibile gratuitamente tutti i miei video. Sì. E quindi è nata la Quarantine TV, cioè la TV della quarantena, che magari si arricchirà chiaramente anche in questa una serie di interventi, perché anche io mi trovo in qualche modo, oltre a portare avanti il mio lavoro quotidiano, ad avere delle ampie parentesi di tempo che a questo punto utilizzerò creativamente per comunicare questa mia condizione di esiliata dalla vita tradizionale, dalla vita normale di tutti i giorni. Di che mole di lavoro stiamo parlando? Quanto c'è fruibile su questo canale? Ore e ore, ci sono centinaia di video,